America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, fra tre quarti d'ora circa avrete il tasso di disoccupazione americano, un dato chiave per l'equilibrio dei mercati. Le stime sono 6,1% il tasso di disoccupazione, 215.000 nuovi salariati dipendenti. Vedremo come andrà, vedremo se gli obiettivi saranno rispettati. Di sicuro la borsa americana reagirà o al rialzo o al ribasso, soprattutto dopo le incertezze di ieri dovute anche alle dichiarazioni di Draghi e così via, in reazione a questo dato. L'occupazione domina. Sentiamo Obama. Here are the facts. When I took office, businesses were laying off 800,000 Americans a month. Today our businesses are hiring 200,000 Americans a month. Barack Obama ieri ha aperto la campagna elettorale a tutti gli effetti, New Foundation Northwestern University, Evanston, Illinois, campagna elettorale che porta alle elezioni del primo martedì di novembre per il rinnovo della Camera e del Senato. I democratici rischiano di perdere il Senato. Barack Obama è in giro per il paese a partire da ieri e quindi continuerà per il prossimo mese per cercare di sostenere i candidati democratici in difficoltà. Cosa ha detto Obama? I fatti, ha detto il presidente. Quando sono stato eletto le imprese americane licenziavano al ritmo di 800.000 persone al mese, oggi assumono al ritmo di 200.000 americani al mese. Tasso di disoccupazione era al 10% nel 2009 e al 6,1% oggi. Negli ultimi 4 anni e mezzo l'economia ha creato 10 milioni di nuovi occupati. Gli Stati Uniti, sottolinea Obama, questo è un punto chiave perché ci riguarda, abbiamo in discussione la riforma dello Statuto dei Lavoratori, abbiamo il Presidente del Consiglio che cerca di cambiare l'articolo 18, ci sono battaglie feroci, si resiste in Italia e in Europa senza accorgerci che poi resistendo resistiamo a che cosa? Resistiamo al vecchio, al passato. Obama dice gli Stati Uniti hanno ridato lavoro a più persone che l'Europa, il Giappone e ogni altra economia avanzata messe insieme. La lezione americana, insomma, in qualche modo c'è. Ed è una lezione americana che dobbiamo leggere in una chiave, secondo me, non macroeconomica. E qui mi riallaccio a quel che vi dicevo ieri, mi riallaccio a questo libro su Google, scritto da Eric Schmidt, il chairman di Google, How Google Works e come Google funziona, e John Androsman. Perché che cos'è questo libro? Questo libro ci spiega che cosa è cambiato drammaticamente nell'economia. Insomma, non possiamo più continuare a ragionare così con l'idea che c'è un'impresa metalmeccanica con i lavoratori in tuta blu. Qua il mondo è cambiato. I lavoratori di oggi sono gli ingegneri, schiere di ingegneri che sono a un computer a sviluppare dei programmi. Questo libro, come dire, ci apre una porta su quello che è l'economia del futuro dal punto di vista della cultura, della strategia, dei talenti, come si assumono le persone, come vengono prese le decisioni e come funziona la comunicazione. Insomma, tutto, se leggiamo questo libro, è drasticamente cambiato e occorre che ce ne rendiamo conto da noi, altrimenti continueremo ad andare indietro. Ma sentiamo Eric Schmidt. The book is really about a different way of managing companies and initiatives, and it talks a lot about what's new. And what's new, of course, is the internet changes everything. And it's almost all a positive message. Ecco, Schmidt dice, il libro è davvero il racconto di come gestire una società in una maniera diversa, parla delle novità del nostro tempo, internet ovviamente ha cambiato tutto, l'ha fatto in modo generalmente positivo, ha cambiato il modo di fare branding, di fare di distribuzione, ci spinge ad essere ipercompetitivi, iperinnovativi, e questo alla fine il tema del libro. E dunque, chi pensa che l'economia del futuro, la nuova economia, non metta al centro dell'equazione la forza lavoro, sbaglia, perché è esattamente quello che sta capitando in un'azienda come Google. Bisogna liberare la forza lavoro per poterne creare di nuova. Sentiamo di nuovo Schmidt. We believe that the book talks about not just what we did and what could be applied in all of our lessons, but we believe that these rules apply not just to other high-tech companies, but we believe that they apply to each and every one of the people that you hire. From now going on forward. Ecco, Schmidt ripete che al cuore del libro ci sono le risorse umane che vengono oggi prodotte dalle grandi università americane, che sono il futuro della prossima America. Crediamo che queste regole per la selezione del personale non valgono solo per la società tecnologica, ma per ogni settore. E vediamo che cos'è la cultura. Credi nel tuo slogan, il disordine è una virtù, la cultura del disordine, organizza l'azienda attorno alle persone che hanno il maggiore impatto. Strategia, il tuo piano è sbagliato, autocritica, costante, continua, scommetti sulla tecnologia, non sulle richieste di mercato, ottimizza, non seguire la concorrenza, magari compra la concorrenza. Talenti, talenti è l'assunzione è il compito più importante, assumi persone che vogliano imparare, che vogliano lavorare, le interviste sono cruciali, devono durare non più di 30 minuti, gli amici non lasciano che gli amici assumano amici, bisogna essere aperti, è un punto chiave, se li ami lasciali andare. Dunque è il contrario del tenere il dipendente fedele, no, perché nel contesto della nuova tecnologia, beh, un dipendente impara delle cose, poi può creare la sua nuova impresa, in questo modo c'è un'attività dinamica costante, cosa che da noi pensiamo ancora in termini di vecchia azienda, vecchia impresa, il lavoratore e il dipendente devono essere ancorati, legati alla fabbrica. E infine la comunicazione, la libertà. Larry e Sergei, dice di nuovo Schmidt, hanno offerto ai propri impiegati il massimo della libertà, dettano la linea generale durante meeting informali con gli ingegneri, poi la discussione è aperta a ogni nuova idea, conosci i dettagli, avvia la conversazione, ripetere non guasta, relazioni non gerarchia, insomma c'è un mondo nuovo in America, se vogliamo tenere il passo credo che dovremo assolutamente cambiare anche noi, nonostante quello che ci racconta la Camusso. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPratero. Ed eccoci alla canzone del giorno, una ricorrenza, ottobre del 51, per l'esattezza il 2 ottobre del 51, quando i giornali se ne occupano, esplode il hillbilly, un genere musicali ispirato alle aree rurali della montagna, soprattutto nella regione degli Appalachi, nel nord-est degli Stati Uniti, e quindi andando alle radici di questo paese di Hank Williams, My Bucket's Got a Hole in It, il mio secchiello ha un buco, speriamo che non sia simbolico del nostro disavanzo pubblico. Yeah, my bucket's got a hole in it. Yeah, my bucket's got a hole in it. Yeah, my bucket's got a hole in it. I can't buy no beer. Well, I'm standing on the corner with a bucket in my hand. I'm waiting for a woman and ain't got no man. Cause my bucket's got a hole in it. Yeah, my bucket's got a hole in it. Yeah, my bucket's got a hole in it. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!